Marco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Se io dicessi Pamela Lyndon Travers, forse non vi verrebbe immediatamente in mente di chi sto parlando, ma se io vi dico Mary Poppins, tutti voi riconducete il vostro pensiero alla mitica bambinaia capace di volare e soprattutto di unire la realtà alla fantasia, una delle grandi icone del XX secolo. Ma se si sa tutto di Mary Poppins, non si può dire altrettanto della scrittrice che ne ha raccontato in ben 8 libri le avventure. I segreti intorno alla Travers infatti sono tanti. Molti sono proprio frutto dell'atteggiamento e del carattere della nostra protagonista di oggi. Prima di tutto la vera età. Già non concordano le biografie disponibili. Si va dal 1899 al 1902 al 1906. Di sicuro è nata in Australia, a Marysburg, nel Queensland, da una famiglia di origini irlandesi. Rimane orfana da bambina. Il padre era un impiegato di banca alcolista. Anche il nome stesso con cui è passata la storia è solo uno pseudonimo. Il suo nome vero era Ellen Lyndon Goff. Well, I think it's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Una vita ricca di interessi e di cambi di rotta. Pamela fu attrice, mimo in una compagnia itinerante, poetessa e finalmente scrittrice di romanzi. Pubblica il primo romanzo della serie di Mary Poppins nel 1934, in Italia esce nel 1936. Walt Disney la convinse a cedere i diritti del libro dopo quasi 20 anni di insistenze, come viene raccontato nel film Saving Mr. Banks. La pellicola parla proprio di quei giorni cruciali durante i quali Disney e i suoi collaboratori discussero, litigarono e subirono il brutto carattere della scrittrice. Pamela non voleva un film musicale con cartoni animati o con parole inventate. Alla fine la spuntò Disney e poté realizzare nel 1964 il capolavoro che tutti conosciamo, la Mary Poppins con Julie Andrews. Pamela Travers morì nella sua casa londinese nel 1996, dopo una vita spesa a difendere la sua privacy, raccontando frottole alla stampa su se stessa e sulla propria storia. Lasciò un figlio adottivo, Camillus, alcolista, morto nel 2004. Vento dall'est, la nebbia è là, qualcosa di strano fra poco accadrà, troppo difficile capire cos'è, ma penso che un ospite arrivi per me. Ho detto, è lei il padre di Jane e Michael Banks? Sì, certo. Avrà portato le sue referenze, posso vederle? Beh, ecco, io per principio non do mai referenze, sono usanze all'antica, secondo me. Ah, davvero? Questo sarà da vedersi, non le pare? Allora, vediamo i requisiti. Punto primo, che sia buona e paziente. Io non mi arrabbio mai. Punto secondo, sempre allegra. Lo sono sempre. Punto terzo, dovrà giocare. Sono certa che i bambini troveranno i miei giochi molto divertenti. Punto 4. Sempre gentile. Io sono gentile ma anche severissima. Credo che questo fosse il primo o il secondo film che io ho visto nella mia vita. Ma comunque, tutti noi conosciamo questa bambinaia, oggi si direbbe babysitter o addirittura tata se fosse una star televisiva. Cappello in testa, ombrello in mano, una specie di cravatino rosso di ordinanza. Quando spira il vento dell'est arriva volando, aggrappata proprio a quell'ombrello con il manico a forma di testa di pappagallo. È una bambinaia apparentemente severa, molto attenta alla forma, dura ma mai scortese. Autorevole ma non autoritaria, di certo convinta di sé al punto da non dare mai spiegazione del proprio comportamento. Per sintetizzare, una tosta, come tosta deve essere stata la scrittrice dalla cui fantasia nacque questo personaggio, che ha condizionato intere generazioni di persone. Pamela Lyndon Travers, nonostante non avesse molta esperienza con i bambini, forse non li amava neanche particolarmente, è riuscita comunque a lasciare ai posteri la figura di bambinaia più famosa di sempre. Ma cominciamo dall'inizio, da prima che il film di Walt Disney arrivasse a rendere immortale Mary Poppins. Pamela Lyndon Travers nasce come Ellen Goff tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La data è incerta, colpa anche del fatto che la nostra protagonista amava raccontare qualche bugia, soprattutto ai giornalisti. Quindi si va dal 1899 al 1906. Nasce nel Queensland australiano, da una famiglia di origini irlandesi. Il padre, che è una figura centrale per Pamela per tutta la sua vita, fa il direttore della banca, John Stock. Padre adorato, ma con un problema serio, l'alcol. Si chiama Travers Goff. Pamela adotterà il nome di battesimo paterno come cognome intorno agli anni 30. Insomma, padre adorato e idealizzato. Ma la verità è che Travers Goff, manager fallito, muore per colpa degli eccessi alcolici quando la nostra scrittrice ha meno di 8 anni, condizionando forse la sua intera esistenza e di certo le sue opere, dove la figura paterna assume un ruolo speciale. Alla morte del padre, la famiglia di Pamela si trasferisce a Boral, nel Nuovo Galles del Sud, dove la madre lavora in una piantagione di zucchero. Con lei anche le due sorelline più piccole. Narra la leggenda che il personaggio di Mary Poppins nasce proprio in quel periodo. Pamela è adolescente e cerca di distrarre le sorelline dalle difficoltà della mamma, malata di depressione. Cerca di distrarle e inventa una tata burbera, anche dura ma in fondo gentile e sensibile. Inventa storie dove la fantasia e le buone regole risolvono le cose. Pamela romanzerà molto una volta famosa sulla genesi di Mary Poppins come suo stile. Racconterà che la bambinaia le si presentò chiedendole di scrivere di lei. Una balla, ovviamente, ma la nostra era piuttosto abituata a abbellire la realtà, a renderla più interessante, una vera esperta di automarketing. Ma torniamo a Pamela, che intanto non è più una ragazzina che racconta favole alle sorelle. Inizia a lavorare, impiegata, segretaria, cassiera. Lavori diversi prima di trovare la strada preferita, almeno in quella fase, quella della recitazione. Soprattutto testi shakespeariani. Ma balla anche, e nel frattempo inizia a scrivere articoli e poesie per riviste locali. Poi a 24 anni decide di andare via dall'Australia. Va in Europa con una compagnia teatrale, rintraccia la famiglia paterna in Irlanda, ma vive prevalentemente in Inghilterra, dove continua a scrivere articoli e poesie per diverse riviste. Pubblica spesso articoli di viaggio, attingendo alla sua esperienza di viaggiatrice degli anni precedenti e probabilmente alla sua fantasia. In un viaggio a Dublino, siamo intorno al 1925, incontra George Russell, proprio il poeta che diventa anche il suo editore, e inizia a frequentare una ristretta cerchia di scrittori. Si definiscono la Theosophical Society, la società teosofica, giovani e stravaganti, ma la letteratura mondiale avrebbe presto sentito parlare di loro. William Butler Yeats, George Bernard Shaw, James Stephens, tanto per citarne alcuni. Al termine di quel periodo così stimolante, Pamela si stabilisce nel Sussex e assume lo pseudonimo di Pamela Lyndon Travers. Sono gli anni in cui presumibilmente mette nero su bianco la sua storia, Mary Poppins, che vede la luce nel 1934. Se volete trovare il viale dei ciliegi, tutto quello che dovete fare è chiedere al vigile all'incrocio. L'uomo piegherà l'elmetto da una parte, si gratterà la testa pensosamente e infine, puntando l'imponente dito bianco guantato, dirà: prima a destra, poi a sinistra, poi ancora a destra e ci siete. Buongiorno. Infatti, seguendo esattamente le indicazioni, sarete subito lì, proprio in mezzo al viale, dove da un lato c'è una fila di case, dall'altro si stende il parco e in mezzo, allineati come i cavalieri di una quadriglia, stanno gli alberi di ciliegio. Se andate in cerca del numero 17, cosa molto probabile poiché tutto il libro riguarda proprio questa casa, lo troverete subito. Per cominciare, è la casa più piccola del viale e poi è la sola un po' malandata che abbia bisogno di una nuova mano di bianco. Ma il signor Banks, suo proprietario, aveva detto alla signora Banks di scegliere tra una casa graziosa, lucida, confortevole e quattro bambini. Le due cose insieme, infatti, non potevano permettersele. Il falco del gabbiano. Abbiamo lasciato la nostra protagonista di oggi, Pamela Lyndon Travers, ai giorni della pubblicazione del primo libro di Mary Poppins, perché stiamo parlando proprio dell'autrice del celeberrimo romanzo per bambini, per ragazzini. È un successo strepitoso, come sapete, un successo che è immediato, appena il racconto arriva nelle librerie britanniche. È una storia semplice, scritta per essere letta o raccontata ai bambini, ma che ha un altro livello di lettura, come molti capolavori della letteratura. Pensate a Alice nel Paese delle Meraviglie, oppure Il Canto di Natale di Dickens. La storia di Mary Poppins racconta le vicende della famiglia Banks, genitori e quattro figli, a differenza del film in cui ce ne sono solo due, Jen e Michael. C'è un padre bancario, guarda caso, una madre impegnata e due bambini mangia babysitter, finché in casa non arriva, appunto, Mary Poppins. E dopo cena, Giovanna e Michele si misero di nuovo alla finestra, aspettando il ritorno a casa del signor Banks e ascoltando il sibilo del vento dell'est attraverso i rami spogli dei ciliegi. Gli alberi, agitandosi e curvandosi nella luce incerta, sembravano impazziti, come se ballassero con le radici fuori dalla terra. «Eccolo!» disse Michele, puntando a un tratto il ditino verso una figura che con un bastone batteva energicamente il cancello. «Non è il papà!» disse lei, è qualcun altro. Poi la figura, scossa e sballottata dal vento, sganciò il lucchetto del cancello e i bimbi poterono vedere che si trattava di una donna che con una mano si teneva fermo il cappello e con l'altra portava una grande borsa. Ecco che mentre stavano osservando, Giovanna e Michele videro una cosa molto curiosa. Appena la figura ebbe oltrepassato il cancello, sembrò che il vento la sollevasse portandola in volo verso la casa. Fu come se l'avesse trascinata fino al cancello, avesse atteso che si aprisse e poi di nuovo soffiando avesse sollevato lei, la grande borsa e tutto fino alla soglia di casa. Nel primo libro si narra quello che molti anni dopo verrà raccontato sul grande schermo da Walt Disney. L'arrivo della tata volante, portata verso il viale dei ciliegi di casa Banks dal vento dell'est. C'è la passeggiata nel quadro dipinto dallo spazzacamino e artista di strada Bert. C'è lo zio Albert che ride e si libra nell'aria. Tutto fino all'addio di Mary Poppins, a cose concluse, a famiglia sistemata per bene. Giù, proprio davanti alla porta d'ingresso, stava Mary Poppins in cappotto e cappello, con la sua grande borsa di tappeto in una mano e l'ombrello nell'altra. Il vento le soffiava intorno selvaggiamente, impigliandosi nella sottana, mandandole fuori posto il cappello. Ma a Giovanna e Michele sembrò che lei non ci badasse, perché sorrideva come se il vento e lei se la intendessero. Si arrestò un momento sul gradino e lanciò un'occhiata alla porta d'ingresso. Poi, con un rapido movimento, aprì l'ombrello, per quanto non piovesse, e lo issò sopra la testa. Il vento, con un urlo selvaggio, si infilò sotto l'ombrello, spingendolo in su, come se cercasse di strapparlo dalla mano di Mary Poppins, ma lei lo tenne forte e proprio questo desiderava il vento, perché ecco che sollevò l'ombrello più in alto, in aria, e Mary Poppins dalla terra. La trascinava leggermente, così che i suoi piedi sfioravano il sentiero del giardino. Poi la trasportò sopra il cancello e la trascinò su verso i rami degli alberi di ciliegio nel viale. In Italia il libro arriva poco tempo dopo, ma sono anni in cui le frizioni con il mondo anglosassone, la perfida Albione, fanno sì che non si possano dire parole inglesi. Quindi Mary Poppins diventa Maria Poppina, che fa un po' sorridere. Il successo comunque convince l'autrice a scrivere il seguito, dal titolo Mary Poppins ritorna. Poi scrive altri 6 capitoli della serie, ma nessuno raggiunge i risultati del primo racconto. La nostra Pamela diventa quindi famosa per la sua supertata e lo diventerà ancora di più negli anni successivi con l'arrivo di Disney, di Hollywood e del film con Julie Andrews e Dick Van Dyke, di cui parleremo più avanti. Ma la cosa particolare la rivela lei stessa in una delle tante interviste in cui è solita dire tutto e il contrario di tutto, soprattutto sulla sua vita privata. He was the wizard of a thousand kings, and I chanced to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kinda feel fine. He had a cloak of gold and eyes of fire. Spiega Pamela di aver scritto libri per bambini per caso e che i suoi interessi veri sono ben altri e che con i bambini non c'entrano quasi nulla. Pamela si appassiona in realtà di miti e di folklore. Dicevamo del fatto che riguardo alla sua vita privata si sa poco. Qualcuno parla di amori saffici di lunga durata, ma anche di innamoramenti per uomini in vista del mondo culturale britannico, sempre molto più vecchi di lei. Quasi una ricerca costante di quella figura paterna persa così presto e idealizzata. Si sa che intorno alla quarantina, sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, decide di adottare un bambino da crescere secondo i suoi principi, incarnati in parte dalla sua creatura letteraria, Mary Poppins. Pamela vive sola, sono anni bui, adotta Camillus, è un bambino di pochi mesi. Il nonno è un suo amico scrittore, di bambini di cui occuparsi ne ha addirittura 5 abbandonati dalla mamma. Camillus e il suo gemello Anthony sono gli ultimi 2 nati. Pamela però non li vuole entrambi e li separa. Addirittura sembra che prenda la decisione su consiglio di uno dei guru a cui si affida da sempre, un armeno che le dice di prendere quello nato per primo. L'adozione probabilmente salva Camillus da una vita di indigenza, ma le scelte di Pamela nei suoi confronti lo condanneranno all'infelicità. Non gli dice di averlo adottato, lo scoprirà lui da solo a 17 anni, una specie di tragedia. Andrà a cercare il fratello, lo troverà. In età adulta entrambi attribuiranno alla separazione voluta da Pamela la ragione della loro infelicità e del loro alcolismo. Negli anni inizia un corteggiamento di quelli il cui esito sarà destinato a entrare nella storia del cinema. Walt Disney con suo fratello Roy si sono innamorati del libro della Travers e le chiedono di cedere i diritti per una versione cinematografica. Il corteggiamento è di quelli lunghi perché inizia sul finire degli anni 40, esattamente nel 1948, durerà per quasi un ventennio. Disney notoriamente è uno tosto, è uno a cui non si può dire di no, ma si scontra con una forse più tosta di lui. La Travers disprezza il mondo di pupazzi e cartoni animati, che è la fortuna stessa di Walt Disney, e soprattutto teme che la sua irreprensibile tata possa essere stravolta e snaturata dall'esuberante re dei sogni di Hollywood. Ha paura, insomma, che Mary Poppins possa diventare un personaggio da cartone animato. Mary lo diventerà in qualche misura e sarà la sua fortuna, una delle più brillanti intuizioni di Walt Disney. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say me ache and nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Pamela Lyndon Travers, autrice del bestseller Mary Poppins e soprattutto creatrice di un personaggio icona di più generazioni. Parlavamo del suo tira e molla con Walt Disney, un tira e molla culminato in un incontro nel 1961 tra i due. È un faccia a faccia nel quale il papà di Topolino deve convincere la mamma di Mary Poppins a cedere i diritti cinematografici. Quel faccia a faccia e i successivi 10 giorni sono diventati di recente un film diretto da John Lee Hancock intitolato Saving Mr. Banks. La nostra protagonista è interpretata da Emma Thompson, che ne esalta le stranezze del carattere e soprattutto l'antipatia, mentre Tom Hanks presta il volto a Walt Disney. Vento dall'est. La nebbia è là. Qualcosa di strano fra poco accadrà. Signore e signori, abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles. Benvenuta, signora P.L. Travers, nella città degli angeli. C'è come odore di... gelsomino. Varichina. E sudore. E dov'è il signor Disney? È arrivata. Ebbene, Pamela Travers, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. Mi dispiace, il mio nome è signora Travers, signor Disney. Oh, Walt, deve chiamarmi Walt. Dunque, allora, cominciamo. Fate! Lei ha un sacco di idee. Che tipo di idee? C'è una gente immobilente! L'anima c'è! No. Immobilente! Non è una parola! L'abbiamo inventata! Ma disinventatela! Non permetterò che diventi uno dei suoi sciocchi cartoni! Dice la donna che ha mandato una tata volante con un ombrello parlante a salvare dei bambini. Secondo lei Mary Poppins è andata a salvare i bambini? Oh, cielo! Da dove è arrivata? Mary Poppins e i Banks sono la mia famiglia. Mary Poppins era una persona vera. Non sono i bambini che lei viene a salvare, ma il padre. Suo padre. Non sa quanto lei sia importante per me. Non la deluderò. Giuro che ogni persona che entrerà in un cinema gioirà. Il film mostra un aspetto interessante e inedito del legame tra l'autrice e il suo personaggio, puntando proprio sulla figura del padre alcolista e su quella famiglia dalla storia drammatica. Sembra quasi il desiderio retroattivo di Pamela Travers di salvare almeno nel racconto il padre dal fallimento e quindi dalla morte. Salvando Mr. Banks nel libro, l'autrice sentiva forse di poter sistemare le cose del suo passato. Saving Mr. Banks è soprattutto il racconto di quei giorni del 61 in cui la Travers lavora fianco a fianco con i collaboratori di Disney, maltrattandoli e opponendosi a ogni idea, a ogni parola inventata, dicendo no a ogni forzatura sul personaggio di Mary. A quelle riunioni partecipavano i fratelli Sherman, Robert e Richard, compositori e musicisti, e lo sceneggiatore Disney Don Da Grady, in pratica la prima linea disneyana. Grazie. Buongiorno, Pamela. Sono davvero sconcertata nell'udire un perfetto sconosciuto chiamarmi per nome. Signora Travers, per favore. Le chiedo perdono, signora Travers. Sono Don Da Grady, lo sceneggiatore. Sceneggiatore? Avrò certamente da dire la mia, signor Di Grady. Da Grady. Ben venga il suo contributo. Sempre che, ben inteso, si firmi un copione. Certo. Ecco il resto della squadra. Loro sono Dick e Bob Sherman, musicista e paroliere. Ragazzi, l'inimitabile signora P.L. Travers, ideatrice della nostra amata Mary Poppins. Chi se no? Mary Poppins. Mai e poi mai solo Mary. Piacere di conoscervi. Salve. Temo salve. Che non sarà una lunga frequentazione. Perché, scusi? Perché questi libri, semplicemente, non si prestano a pigolii e balletti. No, di certo non a un musical. Or dunque, dov'è il signor Disney? Gradirei chiudere questa vicenda nel più breve tempo possibile. Se qualcuno potesse indicarmi dove si trova, gliene sarei grata. Grazie. Nel film si dà conto anche di un fatto tanto vero quanto stravagante, però è un fatto che io personalmente invidio molto alla Travers, perché quelli che fanno il mio mestiere dovrebbero farlo. La Travers pretende che ogni colloquio con gli sceneggiatori e gli autori delle canzoni venga registrato. È diffidente fino all'eccesso, pensa così di cautelarsi da sorprese future e da accordi non rispettati. Quella che vi faccio sentire è proprio la voce di Pamela Travers, da quelle divertenti registrazioni. Now we come to my notes here, my typewritten notes. It is integral to the book and to the story in whatever form is presented that Mary Poppins should never be impolite to anybody. We get the comedy out of this grey, quiet, polite person through which all the strange magic happens. Alla fine Walt Disney si dimostra più duro di Pamela e riesce a averla vinta. Esattamente come vuole lui, Mary Poppins sarebbe diventato un musical con tecniche innovative che permettevano la coesistenza sullo schermo di personaggi in carne e ossa e cartoni animati. Riesce anche a imporre il protagonista maschile Dick Van Dyke, che a Pamela non piaceva affatto. Avrebbe preferito Fred Astaire tra gli altri. Ma alla fine il film si fa così, costa 44 milioni di dollari, che è una cifra stratosferica per i primi anni 60. La premiere mondiale ha luogo alle 8 di sera del 27 agosto 1964 al Grauman's Chinese Theater sull'Hollywood Boulevard, in un tripudio di fotografi curiosi, ospiti dello Star System e pupazzi di Topolino, Paperino e tutte le principesse in parata. Proprio quello che Pamela Travers avrebbe evitato volentieri. Un aneddoto: Disney non invitò l'autrice di Mary Poppins alla prima mondiale proprio perché temeva le sue reazioni scomposte davanti ai giornalisti, ma lo scoprì lei e gli mandò un telegramma per avvisarlo che ci sarebbe stata e di trovarle una poltrona. Immagini d'epoca le trovate in rete, ce la mostrano sorridente ma imbarazzata sul red carpet, acida come sempre. Questa è P.L. Travers, salve. Salve a lei. Vorrei che ci raccontasse com'è accaduto tutto questo. Beh, mi sta chiedendo di svelarle i miei segreti e una delle prime cose da sapere di Mary Poppins è che lei non dà mai alcuna spiegazione, mai. Stasera sono curiosa di vedere cosa ha fatto alla fine. Moltissimo. Well, I won't hold you any longer. Thank you so much for coming to our microphone. The author of Mary Poppins. Thank you. Bye bye. Le resistenze di Pamela cadono fragorosamente in sala, come si vede anche in Saving Mr. Banks, anche se negli anni successivi avrebbe più volte dichiarato i suoi rimpianti rispetto alla cessione di diritti del libro, la verità in sala sembra un'altra. Pamela si fa incantare dagli effetti speciali e dalla magia del Technicolor. Forse anche dai dollari. Ma comunque, le piacciono le canzoni, gli attori, perfino le tante odiate scene miste umani e cartoni, come il ballo dei pinguini con Bert. Alla fine del film, raccontano i presenti, scoppia a piangere dalla commozione. Mr. Banks era stato salvato. Me? Bella gratitudine per te. Non ti hanno neppure salutato? No, non è vero. Guardali. Lo sai, ora stimano loro padre più di quanto stimano te. È così che deve essere. Beh, e non ti importa? Le persone praticamente perfette non si lasciano confondere dai sentimenti. Credi davvero? Beh, ti voglio dire una cosa, Mary Poppins. Tu a me non la dai a bere. Oh, davvero? Sì, davvero. Io so benissimo quello che provi per quei bambini. E se credi che abbia intenzione di continuare a tenere la bocca chiusa? Adesso basta parlare a Pamela, grazie. Arrivederci, Mary Poppins. Non stare via molto. Il successo planetario del film riaccende i riflettori anche su di lei. ma Pamela continua imperterrita a coltivare i suoi interessi per la mitologia, il simbolismo, l'esoterismo. Oltre ai seguiti di Mary Poppins, scrive saggi e opere importanti, direi pesanti, come se temesse di passare alla storia solo come scrittrice leggera, cosa che, devo dire, è successa. Una di quelle capaci di raccontare solamente favole e storielle ai bambini, pur rimanendo riservatissima, soprattutto sulla sfera privata, concede qualche intervista nel corso degli anni. Ma il figlio adottivo Camillus racconta come ai giornalisti la madre spesso dica frottole, con questa giustificazione: la verità è una cosa, i fatti sono un'altra. E il fatto che io ogni tanto inventi qualcosa non vuol dire che stia mentendo. In una di queste interviste la nostra racconta dettagli avventurosi e fino allora inediti del proprio passato, che svelano in qualche modo l'eccentricità della donna. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lavorava per il Ministero Inglese dell'Informazione, svela di aver vissuto per 2 anni con gli indiani Navajo, in una riserva in Arizona, e anche che i nativi le hanno dato un nome segreto. When I was in Arizona living with the Indians. Ho vissuto in Arizona con gli indiani per 2 estati. Mi hanno anche dato un nome indiano e mi hanno detto: ti diamo questo nome, ma tu non devi dirlo mai e poi mai a nessuno. Tutti possono conoscere il tuo altro nome, ma questo nome indiano non deve mai essere pronunciato. C'era qualcosa di davvero strano e misterioso legato a quel nome. Quando qualcuno che non conoscevo bene mi chiamava con il mio nome cristiano, mi sentivo tremare dentro e non mi piaceva. Pamela Lyndon Travers, nome d'arte di Elaine Lyndon Goff, muore ormai 96enne a Londra il 23 aprile del 1996. È colpa dell'età e di un attacco epilettico. Muore prima di poter scrivere, come aveva pianificato, la storia conclusiva della sua Tata Volante. Si sarebbe intitolato Goodbye Mary Poppins, ma questa resterà una favola mai raccontata. Ci resta invece quello che è riuscita a scrivere, che poi è diventato un film visto da tante di quelle generazioni da perderne il conto, da quelli che erano bambini nel 64 come me, a quelli che la bambinaia magica l'hanno incontrata sul VHS, più tardi sul DVD, magari adesso la guardano sul computer di papà o mamma, quelli che sono bambini adesso, come Elide, 9 anni, che vorrebbe la faccia sporca di carbone, come Francesco, 7 anni, che vorrebbe incontrare zio Albert, o Giulia, 9 anni, a cui piacerebbe tanto giocare con lei, magari saltando dentro a un disegno. Vogliamo cominciare? È un gioco però, vero Mary Poppins? Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito diviene più semplice e sereno. Dovrai capire che il trucco è tutto qui. Allora, vorrei andare con gli spazzacamini a ballare sui tetti e a vedere tutta la città, in questo caso Londra. E dopo ritornerei nella casa, in casa e sporcherei da tutte le parti. Mi piacerebbe entrare nei disegni di Bert per cavalcare un cavallo della giostra e fare la gara. Non parteciperei alla caccia alla volpe perché non mi piace la caccia, però andrei a ballare con i pinguini e con Bert. A me piacerebbe andare da zio Albert e prendere un tè e ridere sul soffitto. Ma Mary Poppins come fa a volare? Con l'ombrello. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, la pillola va giù, la pillola va giù. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Avrà avuto un brutto carattere, avrà vissuto una vita che ha fatto soffrire altre persone, avrà raccontato un sacco di bugie, però ha fatto sognare più di una generazione e quindi va ringraziata. Pamela Lyndon Travers. A lunedì. You're not gonna do a thing. nothing to a little angel. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.